Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Oggi volevo iniziare ammettendo di soffrire di una sindrome che non è grave, però può essere fastidiosa. È una sindrome che, non sapendo bene come si chiama, io chiamo la sindrome del ma ormai. La sindrome dell'ema ormai è una sindrome che ti colpisce in una serie di cose. Alcune sono molto piccole, no? Ad esempio, si avvicina l'estate, tu dici: questa estate mi metto a correre, mi metto in forma, dimagrisco. Poi tra una cosa e l'altra arriva giugno, arriva il caldo e dici: ma ormai, ne parliamo l'anno prossimo, no? Oppure può colpire la sindrome dell'ema ormai in cose anche più serie. Ad esempio, se uno parla di cambiare vita, qual è una frase che si dice sempre? Un giorno di questi mollo tutto e me ne vado. Perché un giorno di questi? Che data è un giorno di questi? Perché non dite il 1 gennaio, tra 6 mesi, il 15 settembre? No, un giorno di questi. Poi un giorno di questi, sai cosa dici? Ma ormai. Noi oggi parliamo di gente che invece si oppone alla sindrome di ema ormai, resiste e dice: non è mai troppo tardi, io a qualsiasi età, in qualsiasi momento posso farcela. Se avete cambiato vita, cambiato lavoro, cambiato casa, cambiato tutto quando gli altri vi dicevano ma ormai, chiamateci 800 24 00 24. Sa che cos'è una pila? Una pila? La pila è quell'ingrediente che si mette sul fuoco per far bollire l'acqua degli spaghetti. Ma che c'entrano gli spaghetti e l'acqua e il fuoco? Scusi, la pila? Quella è la pentola, la casseruola. Giusto, giusto, giusto. Io parlo della pila elettrica. Elettrica, sì. Confuso, scusi. Una parola, che confuso. Stavo la geografia. E che c'è la geografia con la pentola? Dunque, avanti. Chi ne è stato l'inventore? L'inventore della pila elettrica. Sì, signore. Sulla è tanto facile. Alessio! Ma che Alessio? Di Como! E questo era Totò, che doveva fare l'esame di licenza elementare fuori tempo massimo per conservare il suo posto di archivista capo. Signor archivista capo, è vero, però noi ovviamente oggi parliamo di cosine un po' più elevate, un po' più difficili, magari non straordinarie, però vi chiediamo di dirci che cosa avete cambiato, che cosa avete fatto quando ormai per gli altri era tardi. Questo è Giro di Vita, io sono Achille Corea. Anche oggi parliamo di persone che hanno cambiato tutto e mollato, inventato una nuova vita, un nuovo inizio. Quest'oggi fuori tempo massimo per alcuni. Se volete commentarci su Facebook, il nostro strumento, uno dei nostri strumenti preferiti, alla pagina che si chiama come il programma Giro di Vita, oppure potete chiamarci all'800 24 00 24. Noi partiamo come sempre da una storia, da una persona che ci dà modo di vedere che è possibile, che si può fare. Vittorio, benvenuto. Buongiorno, sono Vittorio Amigoni, buongiorno. Eccoci Vittorio, io ti chiederò insomma perché cos'è che tu hai detto non è mai troppo tardi, posso farlo, però prima ti chiedo come insomma in una carta d'identità in sintesi di dirci la tua età e che cosa, diciamo, che lavoro hai fatto nella vita. Ma io adesso ho 68 anni fra poche settimane e ho deciso, una volta andato in pensione intorno ai 60 anni, di cambiare completamente il mio modo di vivere. Cioè ho passato i primi 30 anni a studiare e imparare un mestiere, i secondi 30 anni a costruirmi una carriera nel mondo dei computer, dagli anni 60 come pioniere fino a pochi anni fa come dirigente d'azienda. Poi a un certo punto è andato il momento di dire cosa farò tra i 60 e i 90 anni. E avendo avuto un grande hobby che è quello del restauro, ho deciso di tornare a studiare sui banchi di scuola e inventarmi una nuova professione. Cosa intendi per tornare sui banchi di scuola? Tu che percorso formativo hai fatto? Andato in pensione? Sì, ho trovato un corso della regione Lombardia che prevedeva, con esami d'ammissione perché era numero chiuso, prevedeva 3 anni di scuola a tempo pieno a livello universitario al Politecnico di Milano, la facoltà di architettura, e ho la scuola di formazione per i falegnami di Meda, 3 anni di studio con 21 esami e alla fine ho fatto la mia tesi, ho preso il mio diploma di restauratore dei legni e mobili antichi. Ecco, quindi tu hai fatto questo percorso già con l'idea di farlo per mestiere, questo non è il corso che si fa per poi avere un passatempo una volta andati in pensione? No, assolutamente per farlo come mestiere e per riempirmi poi, come dicevo, la vita per i prossimi anni, ecco. Cioè, già dicevo, avevo un hobby, però volevo farlo diventare una professione. Ecco. E tu adesso di mestiere fai il restauratore? Di mestiere faccio il restauratore. Tramite la scuola ho avuto un'occasione unica di andare a restaurare nello Yemen, nella capitale dello Yemen, a Sana'a, tramite un collegamento della mia scuola con l'Istituto dei Beni Culturali di Venezia, dove si sta restaurando la più antica moschea dell'Islam da ormai 4 anni e il cantiere andrà avanti ancora per 4 anni, quindi c'è lavoro per chi ha voglia di cimentarsi in un ambiente un po' diverso, in una cosa sicuramente storicamente importante. Ecco. Quindi tu adesso vai, diciamo, nello Yemen, quanto sì. tempo ci stai? Faccio dei turni di un mese alla volta, un mese qui, un mese là, un mese qui, un mese là, e quindi... siamo più di uno, naturalmente, siamo in diversi restauratori che ci alterniamo e lavoriamo per questo progetto estremamente unico, direi. Scusa, ma per una curiosità, quando lavoravi nel campo dell'informatica, viaggiavi sì. così tanto? Sì, chiaramente viaggiavo molto perché nel mondo dei computer e informatica, soprattutto negli anni 70-80, i pochi che avevano iniziato dovevano viaggiare molto, no? Però erano sempre viaggi nel mondo occidentale, viaggi di pochi giorni, una settimana, al massimo due settimane. Quindi ti sposti adesso molto di più adesso? Mi sposto come tempi di più adesso di prima. Sì, scusa, esatto. Ma la tua vita da pensionato, tu hai una moglie, una famiglia, non hai diciamo un desiderio di riposo? Beh, sicuramente no, finché la salute c'è è meglio andare avanti a correre, no? Per riempire la vita. Poi sicuramente sono sposato con una gentile signora che ha accettato l'idea, anzi mi ha spinto l'idea di fare una professione perché era terrorizzata. Spinto è un bel te, mi ha spinto, fuori casa. Era terrorizzata, sì, di avere in casa un fannullone dalla mattina alla sera. Poi chiaramente il mio carattere mi portava a viaggiare, a darmi da fare. Ho figli oltre trentenni, quindi ho indipendenti e autonomi. E quindi faccio i miei periodi avanti e indietro. Senti, ma come l'hanno presa, al di là insomma della moglie che mi sembra sia contenta, come l'hanno presa anche gli amici, le persone che conosci, quando gli hai detto che avessi fatto questa scelta? Beh, i miei coetanei mi invidiano chiaramente, perché la scelta di studiare 3 anni a tempo pieno tutti i giorni dalle 8 alle 5 alle 3 del pomeriggio e poi studiare, fare gli esami, non è che invoglia molto i miei coetanei. Tutti hanno un po' paura di cimentarsi su cose che non sia più in grado. Invece tu come ti sei trovato? A me sono trovato molto bene, molto più facile studiare alla nostra età e quando si è giovani. Beh, questa è una bordata al luogo comune che dice che si apprende solo da ragazzi, da giovani e poi è impossibile. No, c'è molta più motivazione, c'è più capacità di concentrazione. Diciamo che non ci si annoia, mentre quando si è giovane spesso studiando ci si annoia, alla nostra età non ci si annoia più. Si sa fare le cose in modo sicuramente con più diciamo entusiasmo, ecco. C'è una consapevolezza. Vittorio, ti devo fare una domanda un po' antipatica, ma non hai incontrato resistenze anche nell'ambiente? Non c'è stato qualcuno che ti ha detto ma che vuoi, ma largo ai giovani, lascia spazio a chi ha bisogno di lavorare? Me lo chiedo. No, tutt'altro, perché innanzitutto è una professione molto particolare, quella del restauro è una cosa che chi lo intraprende lo fa solo per passione, no? E no, non ho avuto resistenze, anzi ho avuto molto più curiosità anche da parte dei professori dell'università e soprattutto la commissione d'esame della tesi. Volevano più sapere che cosa scatta nella testa di un sessantenne a mettersi a fare una cosa del genere, più che l'aspetto tecnico della tesi, no? E no, nessuna resistenza, anzi ho trovato molto entusiasmo da parte sia dei professori come dei colleghi studenti 25 anni, ecco. Bene, quindi ti sei fatto anche notare. Chiudiamo con una domanda relativa al tuo bagaglio. La valigia e la zavorra. Vittorio, cosa hai portato dietro dalla tua vita precedente? Ma io mi sono portato dietro per molti anni questi computer che poi dopo 40 anni sono diventati molto noiosi per me e ho fatto bene a scaricarli, no? Quindi quello l'hai abbandonato, ma qualcosa che ti è rimasto? Adesso quello che sì, sicuramente è la capacità di spaziare da un argomento all'altro. E adesso che uso molto più gli scalpelli, sono molto più incuriosito dalla manualità e dalla capacità di realizzare qualcosa con le mani e non soltanto con una tastiera. So, no? Insomma, è un percorso interessante, tecnologico da giovane e manuale a una certa età, diciamo, no? A 68 anni non è presto per usare altri termini. Grazie Vittorio per averci raccontato la tua storia. Controindicazioni. Questo stile di vita è sconsigliato se a 20 anni già usavate la frase «ai miei tempi», a 30 eravate campioni di bocce nel parco sotto casa, a 40 il vostro passatempo preferito era guardare i cantieri per strada, a 50 possedete solo un paio di scarpe, ma 10 pantofole. 800240024 per raccontarci il vostro cambio di vita, magari tardivo per gli altri, magari per voi non lo è per nulla, e insomma la cosa che avete fatto quando magari qualcun altro vi diceva ormai dove vai, ormai stai lì, stai bene, stai al posto tuo. Sergio, pronto? Ciao. Sergio, cosa hai fatto tu? Io facevo il cuoco dall'età di 23 anni fino a 48. Quindi 25 anni di cucina. 25 anni di cucina, ero arrivato ad essere capo chef in un grande albergo, ma da ragazzo ho la passione dell'architettura. A 48 anni mi sono laureato, 110 e lode, e adesso faccio la professione. Quindi sei entrato nella professione a 48 anni? 48 anni e 4 giorni. Senti, ma continuavi a lavorare come cuoco mentre... Mentre studiavo, sì, assolutamente. Avevo una famiglia da mantenere, quindi... Senti, confermaci quello che ha detto Vittorio o smentiscilo, è più facile o più difficile imparare a andare davanti a una commissione d'esame, a un professore a 40 anni invece che a 20? No, è più facile se uno ha sempre studiato, si è tenuto aggiornato, perché hai meno cose, pensi a meno cose strane, non hai tutte le idee che hai da 20 anni a 25, le ragazze o il divertimento... O queste cose qui, è più difficile perché magari lavorando studi la notte. E le resistenze, lo chiedo anche a te, le resistenze dell'ambiente ci sono state? Tu sei arrivato lì a 48 anni e dici io comincio a fare l'architetto, come ti hanno guardato? Ma in realtà io ho usato la vecchia professione perché ho iniziato ad occuparmi di ristoranti e alberghi e quindi ero avvantaggiato perché gli altri architetti non sapevano neanche come si lavora in un albergo, in una cucina. E quindi io ho avuto il gioco facile. Ecco, questo è un buon consiglio, cambiare vita ma portarsi dietro le competenze e le conoscenze della vita precedente. Grazie Sergio. E se lo facessi io? Ecco, questo è il momento in cui a Giro di Vita cerchiamo di avere uno sguardo un po' più esterno mentre continuiamo ad aspettare le vostre telefonate all'800240024. Parliamo di questa capacità di cambiare vita e reinventarsi anche dopo una certa età con Francesco Florenzano, che è il presidente dell'UPTER, Università Popolare della Terza Età. Benvenuto. Intanto, buongiorno, grazie. Intanto è Università Popolare, ma senza la terza età. questo lo dico anche per un motivo specifico, perché quando, e ce lo diceva il primo signore, ci sono motivazioni all'apprendimento, l'età, al di là che non conta, anzi, però, come lui ci ha detto, conta molto, perché le motivazioni sono molto più forti e anche più delineate rispetto a persone più giovani che hanno l'obbligo di frequentare, di fare gli esami perché devono riuscire nella vita, no? E quindi, però, proprio per questo motivo, poi alla fine le università della terza età si sono indirizzate a compiti molto diversi, mentre invece dove ci sono università popolari che fanno educazione permanente nel vero senso, poi raccolgono tutta la popolazione, insomma. La sentiamo un pochino male, se può sistemare un po' la posizione, proviamo. La mia posizione è normale. Va bene, allora le volevo chiedere una cosa, se no, ma ci conferma o comunque ci dice che comunque questa formazione che uno può fare da adulto non è solo un modo per aumentare la propria cultura, ma può anche cambiare una carriera. assolutamente, ma intanto tutte e due hanno dimostrato una cosa, di quanto è in ritardo il mondo universitario della formazione italiana, che si meraviglia di questo, quando invece è un dato chiarissimo. Esiste nell'apprendimento, questo si studia dall'Ottocento, non si studia nel 2000, per quanto riguarda le capacità di apprendimento e la capacità di memoria. Per quanto riguarda l'aspetto motivazionale, beh, viva Dio, sono cambiate le prospettive di vita delle persone e la gente può finalmente anche scegliere determinati percorsi e quindi, potendolo fare, lo fa quando è più libero, quando si è liberato di un qualcosa. Però questo denuncia il ritardo che ha l'università italiana rispetto a quel grande concetto che l'Europa ci ha mandato da oramai da quasi 20 anni, che è il lifelong learning, vale a dire, come voi avete coniugato, con non si finisce mai di imparare, non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi, no? Sì, insomma, forse diciamo non c'è ancora questa consapevolezza nel nostro paese, però ci stiamo lavorando. Sì. Francesco Florenzano, io lo ringrazio. Ora ricordiamo il presidente dell'UPTER, Università Popolare e non solo della terza età, e vi do anche il sito che è upter.it, dove trovate corsi e indicazioni. E noi adesso andiamo avanti sentendo un po' di ascoltatori all'800 24 00 24. Che cosa fate? Che cosa fate quando decidete che non è troppo tardi, quando non cedete alla sindrome del ma ormai, tornate alla vostra passione giovanile, oppure proprio vi inventate una cosa completamente diversa, cercate proprio anche magari un'opposizione, come abbiamo sentito prima, insomma, il nostro protagonista Vittorio, che si occupava di informatica, di circuiti, di cose virtuali, se vogliamo, nella mente di molti, ed è passato invece con le mani a scalpellare. Sentiamo un po' Alessandro, pronto? No, buon pomeriggio, Alessandro, sì. Eccoci Alessandro, tu quanti anni hai? Io ho 36 anni. Quindi non è un'età che, soprattutto in Italia, è considerata molto avanzata, però qual è la cosa per il quale hai pensato non è mai troppo tardi? Ma io avevo ed ho tuttora la passione per la letteratura e per la storia in particolare, e Avevo questo handicap, non ero andato all'università, non avevo avuto il tempo, non avevo avuto le possibilità materiali di farlo. Che strada avevi intrapreso? Che lavoro facevi? Io una volta diplomato sono andato all'estero per un periodo, sono tornato e ho iniziato con un campo da calcetto a organizzare tornei, campionati. Dopo 6 anni, quindi a 27 anni, mi sono aperto il mio pub, il mio locale, che gestisco da 9 anni, e a 29 anni ho iniziato a studiare. È stato un percorso rapido perché, come diceva il signore precedentemente, è vero, si ha una motivazione, delle facoltà che a 20 anni non si aveva, almeno nel mio caso è così, perché non capivo quello che ho capito successivamente, sia dal punto di vista intellettuale che delle motivazioni. Senti, ma qualche difficoltà nel frequentare l'università a 30 anni ci sarà stata? Le difficoltà sono state tantissime, e io tantissime volte, quasi sempre, chiudevo il locale alle 2, alle 3 della mattina, io abito a Latina, facevo la pontina, passavo 3 ore con la copertina in macchina e poi andavo a dare l'esame. Dormivi in auto? È successo tantissime volte, mi alzavo con la schiena rotta e poi dovevo dire al professore di fare per primo o per secondo, inventavo che magari facevo l'operaio e dovevo tornare, o per semplice fatto che poi quando arrivano le 11, mezzogiorno, la stanchezza è mostruosa, perché avere dormito 2 ore, 3 ore, quando si allunga la mattina poi si sente tutta quanta, quindi mi inventavo queste cose qui, però la soddisfazione è stata una cosa incredibile. Alessandro, ti dovrebbero portare in giro per le scuole per raccontare questa cosa, che dormivi in macchina. Quando sento i ragazzi di 20 anni lamentarsi perché studiano, ci rimango male, più che altro per i genitori, perché pagano loro. Questi ragazzi pensano che studiare sia una cosa normale, quando in realtà è un privilegio. e tu, diciamo, te lo sei concesso da lavoratore. Grazie Alessandro per questa esperienza. 800 24 00 24, per dirci che cos'è che voi avete fatto quando altri magari vi dicevano non è mai troppo tardi, che poi è tutto relativo, insomma, l'età dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi fare il calciatore, 20 anni è tardi. Se vuoi fare lo scrittore, magari c'è Camilleri che è diventato famoso a 60. Se vuoi fare il politico in Australia, 50 anni magari è tardi. Se vuoi fare il politico in Italia, no. Sentiamo Saverio, pronto? Pronto, buonasera. Saverio, che cosa hai iniziato a fare quando sembrava tardi? Ho voluto mettermi alla prova, visto che io ho lavorato 43 anni nella pubblica amministrazione, prima impiegato, poi funzionario. Ero lì e ogni tanto qualche mio collaboratore mi si presentava, mi stringeva avanti, dice: capo, mi sono laureato. A questo punto ho voluto mettermi alla prova anch'io, avevo 62-63 anni, 62 anni in sostanza. Il 2005 mi sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza presso una università statale. Tengo a precisare, non si tratta di università telematiche o per corrispondenza o una ordinaria università statale. Quindi lei andava a lezione, si sedeva in mezzo era ai banchi. Era una facoltà, era un corso di studi che non aveva obbligo di frequenza, quindi sono un autodidatta. Senta, ma lei aveva nessun, diciamo, interesse, cioè un interesse, nessun vantaggio professionale, se non ho capito bene, l'ha fatto per al momento in cui ho deciso questo, no, perché ero alla fine della mia attività lavorativa. Infatti io dal 2 gennaio 2009 sono non voglio chiamarmi pensionato, io mi dichiaro non lavoratore. Pensionato mi fa sentire ancora più avanti in età. Non lavoratore, ma ho fatto 43 anni di lavoro. E senta, quando si è laureato, qual è stata la sensazione? È una gioia immensa, di orgoglio, stupenda, perché in corso, mi sono laureato in corso, nei 5 anni canonici mi sono laureato in laurea magistrale in giurisprudenza. Ed è stata una cosa meravigliosa, complimenti del Presidente. È un traguardo che ho visto, che ho potuto raggiungere alla mia età. Grazie Saverio, e vorrei sentire un altro ascoltatore, Marcello, pronto? Sì, ciao, buongiorno. Qual è l'attività tardiva? Intanto oggi, insomma, vi devo chiedere, dichiarate la vostra età quando vi sentite. Quanti anni hai? 56 anni, aspetta che mi fermo un attimo, sì, perché sono in macchina. E dici che cosa facevi prima e che cosa, diciamo, che strada hai cambiato? Ecco, io, diciamo, per fortuna o per sfortuna, ho cominciato a lavorare molto giovane, perché mio papà era morto quando avevo 14 anni, per cui ho fatto l'informatico per circa 25 anni io. E insomma, è andato bene come informatico? Sì, è andato bene, ho lavorato in ditte di Milano, dopo mi sono trasferito a Vicenza. Qual era allora l'esigenza? Perché hai deciso a un certo punto di cambiare? Dici anche per fare cosa? Sì, ecco, dopo ho lavorato e ho fatto quindi 16 anni in concessionaria, però, in una concessionaria automobilistica, ma io mi sono sempre piaciute queste scienze, diciamo, olistiche, no? E per cui adesso sono andato in pensione, ho 56 anni e ho deciso di tentare di prendere questo diploma triennale in scienze naturopatiche, insomma, ecco. E ne hai fatto una professione? Ma no, adesso no, perché lo sto ancora studiando, insomma. Però ma ci io, pensi? Però ci penso, io spero, insomma, la cosa mi piace. Come diceva prima un ascoltatore, non è vero che con l'età anzi, io trovo molto più facile. Sì. No, sono contento, contento che abbattiamo un po' questo luogo comune. Sentiamo Ada, pronto? Pronto, buongiorno. Ada, qual è il... io qui devo chiedere anche a lei l'età. Vabbè, non mi vergogno, ho 63 anni. No, ma veramente, poi per questa cosa, diciamo, che forma di rispetto è non chiedere l'età, no, alle donne? Insomma... Assolutamente, sono orgogliosa di avere 63 anni. Che cosa faceva prima e che cosa si è messa a fare? Allora, io facevo insegnante di educazione fisica. Sì. Poi a un certo punto ho deciso di andare in pensione, anzi ho avuto la fortuna di andare in pensione, mi sono iscritta all'università e ora mi sono laureata quest'anno con 110 e lode in informatica umanistica a Pisa. Informatica umanistica. Sì. Ma che... Informatica umanistica. Quali sono? Allora, so che magari lei non lo fa per quello, ma quali sono gli sbocchi occupazionali? No, lo faccio per quello, perché io faccio adesso lavoro come costruzione di siti web, contenuti informatici, eccetera. E quindi ho cambiato vita. Ha cambiato vita e ha cambiato lavoro. Grazie Ada, sì. Noi siamo in chiusura per noi. Ecco, questa non ce la faccio a non farla. Per noi è troppo tardi, quindi dobbiamo andare. Però, insomma, spero che abbiate sentito, siete stati stimolati da tutte queste storie di persone che quando sembrava che il tempo fosse passato, invece hanno cambiato vita, a volte anche abbastanza drasticamente. Io ringrazio Valerio Rocchetti per essersi occupato della parte tecnica, Fabrizio Intonti, e noi ci sentiamo domani con un nuovo Giro di Vita. Statemi bene! Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.